Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Europa 24. To be or not to be European? Restare o no all'interno dell'Unione Europea? Questo è il dilemma che il premier britannico David Cameron ha nei fatti lanciato ai cittadini oltre manica, ponendo il referendum sulla partenza a un'Europa riformata come una delle promesse di rielezione alle votazioni generali di maggio. Ma quale sarà ora la strategia negoziale di David Cameron con l'Unione Europea e quanti ostacoli dovrà affrontare non solo con i partner comunitari ma anche sul fronte interno? Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Scarpetta, analista politico di Open Europe. Possiamo dire che con il Consiglio Europeo di giugno il negoziato è cominciato ufficialmente. David Cameron ha fatto un giro di praticamente tutte le capitali europee prima del Consiglio Europeo e poi al Consiglio Europeo di giugno ha avuto la possibilità di presentare, seppur brevemente, perché è stato un consiglio naturalmente dedicato soprattutto al problema della migrazione della Grecia, ma ha avuto la possibilità di presentare ufficialmente le idee generali di questo negoziato. Diciamo che la strategia e gli obiettivi potrebbero essere divisi in quattro categorie generali: una riforma delle regole sull'accesso al welfare per le persone provenienti, per gli immigrati provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, maggior potere per i parlamenti nazionali nel processo decisionale a livello europeo, delle clausole di salvaguardia, delle garanzie per quanto riguarda i paesi che non sono membri della moneta unica, quindi il Regno Unito, ma anche la Svezia, la Polonia, la Romania ed altri. E poi una deroga, un opt-out, come si dice in inglese, dal principio di unione sempre più stretta che si trova iscritto in questo momento nei trattati dell'Unione Europea. Quindi questi sono i quattro punti fondamentali sui quali si sta muovendo David Cameron e sui quali proverà ad ottenere dei risultati concreti da sottoporre poi all'elettorato britannico. Quali sono le aree dove realisticamente ha più possibilità, più chance di strappare concessioni secondo voi? Credo che ci sia supporto, che ci sia interesse per quelle che sono le richieste di Cameron su diversi punti. Nel momento in cui Cameron parla di un'Unione Europea più snella, che faccia meno e lo faccia meglio, un'Unione Europea più competitiva, un'Unione Europea più aperta al libero commercio, al libero scambio con il resto del mondo, stiamo parlando comunque di riforme che sono, secondo me, nell'interesse di tutti e 28 i paesi dell'Unione Europea, un'Unione Europea meno burocratica, lo abbiamo sentito dire molte volte anche al nostro premier, a Matteo Renzi. Diciamo che la sfida principale di David Cameron sarà proprio quella di riuscire a presentare questi piani di riforma come delle proposte che vanno a vantaggio dell'intera Unione Europea e non come un'espressione dell'eccezionalismo britannico, perché questo a volte è il messaggio. E quindi naturalmente l'incognita principale resta quella di un'eventuale modifica dei trattati europei, perché David Cameron all'inizio aveva sottolineato che comunque la forma migliore di ottenere queste riforme, che queste riforme siano permanenti, era quella di modificare i trattati europei. Adesso comunque ha in un certo senso accettato l'idea che questa modifica dei trattati potrebbe non essere possibile prima del referendum, perché comunque ci sono diversi paesi dell'Unione Europea, la Francia per esempio per citarne uno, ma anche l'Irlanda, l'Olanda, tutti quei paesi che hanno avuto problemi in passato, soprattutto con dei referendum per l'approvazione dei trattati europei, che sono scettici rispetto all'idea di riaprire l'intero processo e quindi di arrivare a delle modifiche dei trattati. Quindi David Cameron sta lavorando anche su delle ipotesi alternative in questo momento, cioè una sorta di promessa di modifica dei trattati da poter comunque presentare all'elettorato britannico prima del referendum, anche se il cambio dei trattati questa modifica non si è ancora verificata, ma si verificherà magari in un futuro più lontano, diciamo, anche dopo il 2017. E poi non c'è solamente un fronte, tra virgolette, esterno europeo con cui Cameron si deve in qualche modo confrontare o scontrare, ma c'è anche un fronte interno, perché c'è un'ala anche più, se vogliamo, euroscettica all'interno del suo stesso partito, no? Naturalmente, questo è un altro dei problemi cui dovrà far fronte il primo ministro britannico. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24. Un saluto e buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.